Sono le 19:36 minuti primi, ritornano le trasmissioni di Radio Cufia e ritorna con questa nuova seconda stagione che ricomincia con il GR, sebbene non sia al suo tempo. E ricordiamo subito i contatti della radio, il nostro sito internet www.radiodefault.it. I nostri account Facebook che è Radio Default, il nostro account Twitter sempre chiocciolina Radio Default e il account Skype radio.default tramite i quali potete intervenire in diretta e fare domande, mandare imprecazioni e robe simili che però oggi sono staccati. La radio infatti ancora non ha ripreso il suo normale funzionamento. Quindi andiamo subito a bomba sull'attualità. Quest'oggi non c'è l'approfondimento che invece ci sarà la settimana prossima e andiamo con il nostro consueto giornale radio. Iniziamo con gli aggiornamenti da Al-Quds, Gerusalemme, dove una ditta olandese disinveste dalle colonie. La ditta olandese Royal Econi-Esconing DHV ha dichiarato di essersi ritirata dal progetto di costruzione di un impianto fognario per le colonie di Gerusalemme Est. La ditta ha dichiarato di tenere in gran conto l'integrità morale e il rispetto dei regolamenti e delle leggi internazionali e di aver cessato il coinvolgimento nel progetto non appena si è saputo della sua natura. E passiamo ai cortei contro i negoziati a Ramallah. Sabato 8 settembre un migliaio di persone hanno manifestato a Ramallah contro i cosiddetti negoziati di pace con l'entità sionista. Il corteo, organizzato dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina anche per commemorare il 12° anniversario del martirio di Abu Ali Mustafa, è giunto fin sotto la Mukata, il quartier generale dell'autorità palestinese. Siamo contro i negoziati perché non servono gli interessi del popolo palestinese, ha dichiarato il leader del fronte Abdurrahim Maalouf, aggiungendo che il fronte rimane con i diritti del nostro popolo al ritorno all'indipendenza e all'autodeterminazione. La manifestazione ha chiesto a gran voce l'unità nazionale. Tutte le maggiori forze politiche, ad eccezione di Fatah, hanno manifestato contro il nuovo giro di negoziati. Martedì 10 settembre, invece, Nabil Shaat, membro del comitato centrale di Fatah, ha dichiarato che durante il mese e mezzo di negoziati l'entità sionista non ha dimostrato nessuna buona intenzione, né a parole né con i fatti. E e il Fronte Popolare incita alla resistenza armata. Zulfikar Suergo, membro del comitato centrale dell'FPLP, ha esortato il popolo a formare cellule di resistenza armata nella West Bank occupata per dissuadere i coloni e le forze d'occupazione dal compiere attacchi. Suergo ha aggiunto che i negoziati e il coordinamento tra gli apparati di sicurezza sionisti e palestinesi forniscono una copertura ai crimini dell'occupazione. Passiamo a Belahin, dove la magistratura sionista archivia l'omicidio di un manifestante disarmato. Dopo 4 anni e mezzo, la magistratura militare sionista ha archiviato per mancanza di prove il processo per l'omicidio di Bassan Abu Rahma. Il fatto avvenne nell'aprile 2009, durante una delle consuete manifestazioni di protesta che si sono svolte nel villaggio di Belahin contro la costruzione del muro di segregazione. Abu Rahma, ben noto membro del comitato di coordinamento locale, venne colpito a bruciapelo da un lacrimogeno mentre era disarmato e non stava costituendo alcun pericolo alle forze d'occupazione. Malgrado le dichiarazioni del tribunale, il caso venne ripreso da diversi operatori, da almeno 3 angolazioni, e venne anche inserito nel documentario Five Broken Cameras. E passiamo alla striscia di Gaza, dove la crisi del carburante minaccia i tassisti. Il ministro dei trasporti a Gaza ha dichiarato che la carenza di carburante rischia di lasciare senza lavoro migliaia di tassisti. L'attuale crisi è scaturita dalla distruzione dei tunnel che collegano l'enclave costiera con il Sinai egiziano, pratica iniziata dal deposto presidente Morsi e continuata dall'attuale presidente al-Sisi. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha esortato il governo sionista e quello egiziano ad aprire valichi di frontiera per permettere il transito di persone e di merci. E passiamo alle notizie dall'entità sionista, dove i documenti della CIA provano la presenza di arsenali chimici. La rivista conservatrice statunitense Foreign Policy ha rivelato di essere in possesso di documenti della CIA che fornirebbero prove consistenti dell'esistenza di un ingente arsenale chimico e biologico all'interno dell'entità sionista. Il documento, datato 1983, dichiara che sebbene non si possa confermare con certezza il possesso di agenti chimici letali, numerosi segnali ci portano a credere che dispongano di gas nervini, gas, cioè liprite, e diverse tipologie di agenti per il controllo delle folle e che sono dotati di vettori per lanciarli. Le fabbriche in questione sono state individuate nel polo industriale di Dimona, nel deserto del Naqab, dove sono presenti anche numerose testate nucleari a disposizione dell'esercito sionista. E passiamo alle carceri, dove le forze d'occupazione riarrestano un ex prigioniero. Martedì 3 settembre le forze di occupazione hanno arrestato Sami Hussein, 43 anni, un ex prigioniero che ha trascorso 23 anni nelle carceri sioniste in detenzione amministrativa. Hussein si stava recando all'università di Abu Dis quando è stato fermato ed arrestato ad un checkpoint. La detenzione amministrativa prevede la carcerazione senza la necessità di fornire alcuna prova di reato ed è stata appena estesa ad altri 38 prigionieri. E passiamo agli esteri, alla Francia, dove le lobby sioniste perseguitano gli attivisti del BDS. Infatti oggi 7 attivisti francesi andranno a processo per aver incitato al boicottaggio delle merci sioniste. I compagni, provenienti da varie realtà politiche d'Oltralpe, il nuovo partito anticapitalista, il partito comunista e i Verdi, avevano svolto una campagna di sensibilizzazione in un supermercato parigino della catena Carrefour e sono stati indagati per razzismo e discriminazione. contro una nazione, con pene che vanno fino a 40.000 euro di multa e 2 anni di reclusione. Il presidente Hollande continua così il percorso del predecessore Sarkozy, nel reprimere chi si oppone all'occupazione sionista della Palestina, sebbene altri 6 processi del genere si siano risolti con l'assoluzione dei compagni. E passiamo al Canada, dove la comunità ebraica si scaglia contro una campagna pubblicitaria palestinese. Infatti alcuni gruppi ebraici di Vancouver vorrebbero citare in giudizio l'azienda di trasporto pubblico per aver affisso dei manifesti pubblicitari antisionisti. La campagna, promossa dalla Coalizione per la Consapevolezza Palestinese, raccoglie una serie di mappe in cui si mostra come nel corso degli anni il territorio della Palestina sia stato colonizzato dai sionisti. Tra gli ideatori della campagna c'è anche Merti Roth, un signore ebreo di 79 anni che è solidale con le popolazioni resistenti. E si conclude oggi qui questo breve GR che di ripresa delle vacanze per l'inizio della seconda stagione della spettacolare Radio Cufia. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con il consueto appuntamento di approfondimento che in genere che doveva essere oggi ma è stato rinviato appunto a giovedì prossimo, tutto incentrato sulla tragedia per il trentennale di Sabra e Shatila. E quindi noi sono le 19:49 minuti primi, vi rilasciamo i contatti della radio www.radiodefault.it e i contatti di chi organizza questa trasmissione, cioè l'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che ha un blog castelliperlapalestina.noblogs.org, dove potrete ritrovare questo GR insieme alle repliche delle nostre registrazioni delle trasmissioni precedenti oltre che tutta una serie di archivi di iniziative e di articoli dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo e buona libertà a tutte e a tutti ad Albano o ai Castelli Romani in Italia e in Palestina. بتعصب الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي العرض وضربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان